Hola. Hola. Staziona. Hola. Sì, prova. Prova. No, stavo provando a vedere se sta a posto. Hola. Ti aumenta anche la radio. Che di segnale? No, V5. V5? Aspetta, guardo bene. Prova. 9-3. 9-15, non 9. È già di segnale. 9-15. Già è buono, già. Sì. Ci sta andando. La radio ci aumenta bene. C'è una bella radio. Allora così e boh. Cazzo, me ne scinta la canna già, poi come prendo quello nuovo me lo metto a casa. Ma i figli li ho fatti passare bene tutto volante. No, li ho fatti passare bene, ma me ne scinta la canna, sono stanchissimo sono. Non so, nella mia non si trova quel buco per farlo passare, ho dovuto portare da quello che piazza di stereo, da Pudi. E ho avuto difficoltà anche lui, non ne trovavo neanche lui in questo codice, io aspetta che rifacciamo un buco e lo facciamo passare. Invece qui ha trovato, dopo tanto, c'era una plastica, la tocca fuori e c'era il buco. Ma ci ha messo un po'. Kappa, dai. Comunque già migliorato, dai. Vai drogato! Il bambino che deve andare a visita. Dopo me lo chiudo con calma perché mi è uscita la canna già. Sì, ci credo, va. Dove l'hai messo? Dove mi hai detto tu, non dire dove. No, non lo sa nessuno dove. Calma. A me già me lo puoi dire, non ti do qui. Ah, no, me la frega molto. Già te lo dico dopo. Che regala. Va bene, tu vai. Se vuoi tenere la radio accesa ti accompagno. Yeah, no, devo andare un attimino a cambiare a Gabriele, che devo cambiare il pannolino e portarlo a visita, che c'è dormito. Ok, dai, ci sentiamo dopo. Ehi, tu comunque già va, tranquillo. Roba seria, Poi fa male, hai visto il fusibile che gli ho messo? Fusibile autoradio. Ce l'avevo anche io così, mi sa che c'ho anche il fusibile che ci va lì, quello grosso. E quello lì ci ho messo, quella è un'altra storia, quello già regge già. Ok, dai, tutto fatto, la prova, adesso vado, cioè col bambino lo sistemo. Mi ci dà la canna, ti giuro. Sì, lo so, dai. Va bene, anche là ci sentiamo. Però lo devi provare in lontananza, non così vicino. Sì, no, dopo lo provo in lontananza, adesso è giusto per vedere un po'. Ma io avevo staccato tutto perché ieri c'era grandine, pioggia, temporale, tuoni, non so se li hai sentiti. Ho staccato tutto, sia la corrente che l'antenna. E anche io ho staccato tutto. Bene, dai, ci sentiamo, dai che prepara il bar Gabriele. Ciao. Ciao. Vai, drogato. Ma Luca, dammi un controllo sotto casa. Fondo scala. Vabbè, perfetto, dai. Ci sentiamo dopo. Ciao, Luca. Vai, drogato. Spacciatore. Pomane. Dai, sto chiudendo, dai. Ho acceso solo per dare il controllo a Antonio. Vado a riposarmi un po' che sono stanco morto, ne ho fatto mille di cose oggi. Le spese, sono andato al ghetto, devo prendere a Marco con la ragazza all'aeroporto, un casino, là. E tanto sto sistemando un telefono io già, ciao. Yeah, ciao. Attenzione, accucce d'Antonio. Attenzione, ascoltate Antonio, in barra mobile, brecco. Attenzione, dici, c'è qualcuno? Attenzione, Bass Furious! Attenzione canale 10, copiata Antonio K. Roger, prego. CQ DX North Sardegna che chiama, cambio. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola. Ecco qua. Vai. Attenzione, dirci. Cazzo, a canica c'è. 6925. Non ci credo, però aspetta, Antonio, dammi il controllo tuo a me. Io sono con 4 watt modulati per avere un riscontro. Adesso dopo attacco. Guarda che sono uno smitter. Come? Smitter non ce l'ho. Ah, con l'apparato senza. Allora, premi la portante muta, fammi guardare. No, di più. Forte sto arrivando. Sì, sì, confermo, 9.25, guarda me. Io adesso attacco, vabbè, tu guarda, no, perché non hai smitter. Ecco, così sono, penso, nelle tue condizioni. Ma non cambierà molto, dai. Comunque, 9.25 confermato. Allora ho fatto un bel lavoro, una bomba, un bel lavoretto ho fatto, Ascolta, che aiutino è? Che baracchino è? Lava 100 plus. No, no, l'aiutino, la stufetta, che stufetta è? Sempre il bowling, sempre il bowling, 747, quello che c'è a casa. Ottimo, però caspita, 9.30 anche hai toccato. Cazzarola. Ho fatto un bel impianto, Sì, vedi, adesso c'è più fading, adesso il segnale sta un po' scendendo, 9, 9.20, mentre ti muovi, però... Caspita, Canica, tu intendi vicino a casa di Paoletto o proprio Canica più giù? Vabbè, a Paoletto. Ah, regione Gesù Giuseppe Maria. È ottimo. Quello è un segnale, come che tu fossi con l'antenna sul tetto, come fosse una barra fissa. Quindi vedi che macchine e watt aiutano un bel altro che. Va bene, Anto, io continuo ai fornelli. Poi ci sentiamo più tardi nel caso, ok? Ma dove c'è il Vanity sono? Sta arrivando una bomba qua, va bene, io come ti sto arrivando? Ma capito, Marco, dove c'è il Vanity? Eia, c'è Claudio anche. Allora, Claudio modulato 9+15, 9+15 modulato, poco meno non modulato mi pare. Antonio in macchina, aspetta, dalla vicino casa di Paoletto col 747, 9+25. Lo sento anch'io qua adesso. Lo sento anch'io qua, va bene. Ascolta, la modulazione è come la mia, la solita. Sto andando col 440, ho fatto un po' di pulizia, che era tutto sporco, com'è? Ottima, eccellente, prepotente, abbastanza prepotente, però chiara. E quindi va bene, quindi Antonio in baramobile si è messo a piombo, l'antenna poi mi dirà cos'è. Io adesso devo staccare all'istante che ero ai fornelli, ma va chiamato Antonio per un controllo. Va bene, signori, nel caso più tardi, ciao a tutti. Vai Antonio. Una magnum lem. Poi me la guardo su internet, dai, per vedere la lunghezza e le caratteristiche. Va bene, Claudio, un saluto anche a te, ti rilancio, saluti Antonio, io stacco che sono ai fornelli. Ciao Marco, ciao, grazie del controllo. E eccola, su per giù il segnale, buono, abbiamo fatto passi da gigante. Attenzione gaffa, cucci di Antonio. Scusa, Mario, ha squillato il telefono. Antonio, ci sei? Antonio. Antonio, dove sei? Antonio, dove sei? Upala, mi senti? Io ti sento, dove sei, ti ho detto? Non mi senti, non mi senti, dove sei? Io. Eia, ma mi senti? Ma gaffa. Mi senti sì o no? E ti sento, avanti. Dice Polizelli, dove sei, non rispondi. Sto qua via Milano, com'è? Via Milano? Non si è attaccato? Sì. Non lo so. Milano giù in fondo. Dove c'è la bomba? Adesso sto salendo più su. Ma è inutile che vieni qua. Segnale di Gianvello, fermati dove c'è il rifornitore, secondo il rifornitore lì. Agganci e sganci. Ok. Adesso lo proviamo, appena che mi fermo il rifornitore. Ma non entra il rifornitore, ma no, nel ciglio della strada, lì va l'uscita del rifornitore. Fermati lì, fai la prova, attaccato e sganciato. Appa, un attimino che proviamo. Ti voglio vedere quanto incrementa, se no cosa hai fatto a fare sul lavaggio. Appa, penso che incrementi molto, Incrementa molto. E quanto ti arrivo io adesso? Adesso sì, no, prova. Aspetta un attimo di pazienza. Devi fermare però, non in movimento. Gioco fermo, va, aspetta, 9 adesso. Prova. Da. Cosa c'è? Staccato. Così staccato sì. Staccato. Sei staccato sì o no? Staccato così. Ok, attacca. Staccato. Sì, lo voglio incrementa. Vai da 5 a quasi 9. Ecco. Allora ti Fabrizio. Allora qua. No, stavo guardando, non avevo nemmeno la adesso sto guardando la potenza di questo apparecchio. Infatti ho controllato, potevo controllare, vabbè c'è lo strumento attaccato, che era per i suoi vatti, ma era a metterlo, non avevo visto che c'aveva la regolazione della potenza. Se te l'ho detto l'altra volta, te l'ho detto, ho detto guarda con la radio, c'era la regolazione della potenza, se me l'avevi fatta vedere a me, perché l'avevi modificata tu, e gliel'hai messa dietro, attaccata al connettore dell'antenna, lì hai messo un potenziometro con la regolazione della potenza. No, quello era il 48, la regolazione del parlascolto. Questa ce l'ha lui proprio la regolazione sul frontalino, che nemmeno credo che era la regolazione. PVR, CRF PVR. Infatti guarda un attimino. Adesso così sono al minimo della potenza. Infatti c'è un bel picchi positivo. Ho fatto quella modifica forse qua. Guarda un attimino. Io. Una bomba, quando abbassi la potenza è una bomba, la radio sembra il Kimwood. Allora, vediamo un po', adesso qua sono al minimo della potenza e gli sta dando tutti modulati. Ho fatto un paio di modifiche, ho visto dentro, infatti non mi ritornavano delle tensioni quando sono andato a controllare quel difetto. Poi ho visto un paio di modifiche, ecco perché qua ci sono delle modifiche, ho fatto una specie di un paio di magheggi, un trimmer dentro, cioè, e questo che cavolo è questo trimmer? Però dopo tanti anni che se ne ricordava più. Ma già pompa, pompa, va bene Fabri, alla grande, guarda che c'è Antonio in macchina, dai un controllo, prova con Fabrizio Antonio. Sento Fabrizio, come mi senti? Bene, 9-10. Va bene, dai. Adesso vediamo un po', guarda adesso rimanga portante muta, adesso allora dammi un controllo adesso così modulando qua, quanto sono? Adesso sei 9. Ecco, guarda, adesso sollevo la potenza, adesso dimmi a quanto sono in questo momento. 9-10 quasi, però è più bella se la tieni a metà potenza, non tutta manettone. No, così sono tutta manettone, guarda com'è così. Si è aumentato il segnale, però la modulazione va leggermente a calare, mentre invece se la potenza la tieni media, certo c'è una radio fenomenale. Ma quello no, quanto è adesso il segnale? 9-10, da 9 a 9-10 vai. Allora, così lo aspetta, lo metto un po' più, allora, così sono al minimo di potenza. Così 9, però la radio è più bella. Aspetta che aumento un po'. Ecco, così ho aumentato un po', però sempre pochi watt, non lo so da quanti ne ha. Sì, non sono pochi, 9-5 sì. E la radio è sempre buona oppure ha peggiorato? No, è sempre bella, forte, chiara. E allora lo lascio così, lo lascio diciamo a un quarto di giro e lo lascio così. E tutti gli altri stanno dei picchi. Allora quello lì non è attaccato a quel lineare che mai detto. No, sì, guarda adesso. Adesso dovresti aumentare. No, va bene. Una bomba. 9,20 vai da 9,5 a 9,25 la radio non cambia, rimane la stessa con questa regolazione d'ingresso ed è spettacolare. Beh, questo è un bel appetito, è fatto bene dentro, me lo ricordo. Aspetta un momento. Non hai tolto una potenza, qualcosa è successo? Hai tolto la potenza? No, guarda, l'ho aumentato un pochettino. Che cazzo è bruciato, aspetta. No, sei calato a 7. E adesso? E adesso sei salto, lo devi mettere in lineare a 3. Ok, alla terza potenza. E infatti della radio lo devi lasciare come erano prima. Vediamo un po' se sta andando, se non lo fa per anno. No, sta andando, 9,25. Non lo devi toccare così, Fabri. Terza potenza dell'amplificatore. E i watt come erano regolati poco fa. E i watt sono sempre così. Aspetta, prova a dare una tacca in più, dici cosa succede. Aspetta. Una bomba qua. Guarda adesso, forse un paio di tacchi in più, che cosa succede? C'hai 9, non arrivi a 9,30, però la modulazione te la distorce. Non serve a niente, meglio 9,25 con modulazione bella. Così sono a 4 tacche, guarda un attimino. Così deve andare, 9,25, la terza attacca sì. Certo, quarta attacca, non è ben chiaro, va. Va bene, per me così va bene, radio ottima, vero Antonio? Ottima, ottima proprio, io sono qua. E sono fermato qua, dove c'è, cosa cavolo di cosa è? Dove c'è quei campi, dove c'è l'alberghiero, no? Sopra. Ho capito. Allora lo lascio così. Aspetta se la faccio di una tacca. Chi è? Buonasera. Allora, così ho passato di una tacca qua. La cosa più bella, Fabri. Secondo me ti conviene lasciarla così, intanto non cambia niente. Guarda che c'è Daniele da Itiri che a te ti arriva fortissimo sicuramente. Ciao Daniele. Saluto e cicole a tutti. Niente, dai, dopo ritorno dell'APM. Va bene, ciao Daniele, pensi piccolo, stavo facendo delle prove per vedere che sta succedendo. C'è un portatile con un quartetto al canale 10, quindi esatto. 9,10 sei qua, radio Super 5, perfetto, sento pure l'acqua di un bombolo. Poi non so chi c'è, dai, tu riprendo dalla macchina, tra poco, ciao. Ma finalmente mi senti? Tanto, sì, un bombolo sei. Sto arrivando. Qua sei, 7, radio 5, perfetto, non so cos'è nulla che va bene. Cazzo si arrivano anche a me a Itiri, babù. Davvero micra, tu sei 6 e lui è 7. Devi stare chiamando, riprendo dalla macchina tra poco. Ciao a tutti. Ciao, ciao Daniele. Beh, da quella posizione in macchina, no, c'è Cristo. Io sono coperto, non c'entra a fare. È giusto così per farmi due chiacchiere, ma oramai. Non vuoi più nulla da là. Comunque Fabri, lascia tutto così che va bene. Lascio così, dai. Quando adesso mi sono fatto un pochino questa cosa qua, che se mi prendo nel 2007 dove c'è altro con il 440, allora uso questi palazzini. No, 440 uso io, ce li ho tutti e due a fianco e uso, perché sennò si cercano e da voi toccano per tirare le palle. C'è sempre quel, lo sai che mi ha restituito quello là, il coso, il 757, se di nuovo spento. Ci siamo da accesso, ma proprio spento. Allora, dice, ce l'aveva acceso, stavo ascoltando perché lui ha voluto come ricevitore, capito? E lì si è spento. Chissà se mi ha reso che l'ha pigliato, anche a me me l'aveva fatto una volta, poi l'avevo visto tu, infatti gli ho restituito, insomma, quello l'avevo fatto, me lo sono ripreso e sono fai fuori di merda. Sarà di controllare, appunto. No, tu hai il ballo. Stavo una voce bene, una voce contento. Infatti lo tenevo col commutatore, ricezione. Bene, tranquillo, sono appena spostato, ma... Però nulla. Poi, una mattina sono entrato, non sentivo più la voce, ho detto, ma cosa stesso, perché nel salone. Sono andato della spenta. E poi c'è riacceso la sola. C'è spenta la sola. C'è spenta. Io non ho toccato niente. Anche l'altra volta c'era... no, l'altra volta non accendeva. Sono andato a accendere e non accendeva. Non so cosa avevi fatto e non avevi fatto accendere. E se era accesa c'è spenta. Ah, vabbè, l'altra volta c'era... Non ho bruciato niente. Un pazzo furios. Poi sì. Tutto morto a gioco. Ah sì? Prova a indovinare. Ma c'è tricologico sì. Sì. Infatti sì, 9,30. di giovedì, che non lo so. Adesso l'ho messo da parte di nuovo, anzi veramente qua, l'ho messo a fianco all'820H che c'era un buco, e lo spento. Ma non si accende niente, è completamente spento. Nulla, vabbè, ho controllato la torre, non sarà il capo, no, nulla. Ho controllato il cavo, ma l'avevo tutto fatto bene col cavo, con le fascettine, il fusibile, tutto. Ho controllato, niente da fare, niente, non si accende. Non accende, vabbè, quando sarà, vediamo. Quello da mettere, da fare accendere, mi si girava male, avevo la radio, non accende, cazzo. Cosa è successo? Se l'ha fatto corto magari è a vedere, così è a vedere. Ehi, vabbè, quando ci abbiamo voglia, non ci voglia tu. Allora lo smister, ti faccio schiattare, ti faccio. Un attimo, quei 5 minuti, tu ti portaci a 10, dopo che io sto commutando, vedi, guarda, senti, facciati il sonno, vai. Ecco qua. Abbastanza silenzio. Ho già acceso il drone. O ti nandi o ti con un colpo di bottante ti scendo la radio. Ti faccio fare la fine di Antonio R20, se no dai vai. Senti la ventola? Ti faccio fare la via Antonio R20. Tieni, ho acceso l'Eroe Italy. O ti nandi o ti con un cuffiata ti scendo la radio l'antenna. Hai paura, eh? Allora lo spegniamo di nuovo, eh? Ecco qua. Spento. Va bene. Ok, non devi lavorare, Fabri. Stanotte. Adesso sono liscio. Stanotte. Liscio va benissimo. 6, 9, 5, va bene. Fai due chiacchiere in città. Ultimo per la truppa. Io ho messo quell'elettroide, vedi, non sta fischiando più, ce l'ho a due adesso, Mickey King. Prima ce l'avevo uno, va bene lo stesso, no? Che va bene. Ciao, Gianto, cosa hai detto, Anto? Bene. L'antenna mia bassa, non riuscivo ad arrivare in piccolo, io non la metto sopra il tetto, assolutamente, anche se ho la possibilità di metterla, non la metto, perché qua, quando entra l'imbecile, il maestrale me ne rampa tutto in terra, sfascia le tegole non sono le mie, quindi va bene così, per fare due chiacchiere, anche troppo. Va bene, allora. Guarda, l'estate sicuramente aggiungerò un paio di metri di tubo, ma sempre dove è adesso l'antenna, sempre nella mia zona, sempre nella mia zona. Aggiungerò un paio di metri di tubo, ho fatto cavo c'è, e la tirerò su un paio di metri, ma non farò niente di che perché non mi interessa più. È giusto per fare due chiacchiere con voi, per rimettere un po' in moto questa frequenza che l'avete fatta morire, capito? Chi ha giocato l'avvaio, non funziona più come prima. Sono sicuro altre cose molto più importanti della radio. Ok, però già la tiriamo su quest'estate. Mi viene Fabrizio, mi fa un giunto, innestiamo e tiriamo su, no Fabrizio? Eia. Li ho tutti usati quelli, ma via tutti i tubi del sistema, li ho messi nella 510 perché quella mi interessa, ma che ci ti punti e faccia, qua è solo un passatempo per fare due chiacchiere, salutare gli amici eccetera, se no già ne avevo tubi. Li prendiamo un paio di tubi, restiamo, se sono da bucare, per farli con gli scopici, già ci mettiamo poco a scendere giù e farli dei buchi e metterli in bulloni. Quindi devi lavorare stanotte, ascolta, a casa tutto bene, sì, parlo Santosso. Sì. Sì, ecco, mi hai ricordato che devo fare un lavoro, porca, vabbè. Cioè, te lo devo ricordare io, c'è della tua madre. No, mamma, perché anche tu lì devo fare un lavoro, vabbè. Sempre qua? Ancora non ha smesso? Oh, grazie a perdere. Se non basta il rotto di male che c'è, buona di cavivoria. Mamma mia, l'ho messo. Vabbè, adesso devo consegnare, ho fatto un lavoro a un amico, un collega, dai. Adesso farà, vabbè, cambierà con dei lavori sulla macchina, ho fatto una ringhiera e l'ho terminata l'altro giorno. Non sempre quello dove siamo andati noi? No, non credo. Quello del motore, per capirci. Quello del? Del motore. Sì, sì, lì a Uccini. Vabbè, vabbè. Esatto, mi pare sia anche un tuo collega quello, no? Già. Cavaredo, Può essere un mostro in quei tipi di motore. No, già è bravo, già è bravo. No, devo fare, che era moto, devo fare un po' di cambi di, un po' di roba. Perché così stai? Aspetta un attimino. Tanto dove sei? Ah, mi sono fermato, dove c'è questa scuola di calcio, lì. Dove c'è questa cattedrale alla Berghia, mi sono fermato qua. Ah, e non se ti fermi lì dove c'è il tramba? Ma lì prendi tutto, arrivi bene a Ittiri, a Sassari, a Valvero, a tutte le parti arrivi bene. Io quando passo lì, che sono alla radio, in VHF, mi fermo lì, sento anche Olbia. Sì. Questa è una bomba il posto. Alto! Un DJ! Scappa di Roma, trovi, invia la persona, è riuscita a Ittiri. Gabba, ti sento che è una bomba, ti sento io, eh. E sono liscio come l'olio, 5 fatti. Vai, buffa la brancia. Sì, buffa e ci dà rosa, non c'è niente, cioè, ci sono fatto anche troppo. Ehi, Antonio, l'87 sta usando lui. Sì. Cazzo, una bomba, Cara di Roma, maestro. Sono scordato veloce, sono io adesso. Proprio riuscito a Ittiri. Scappa, qua ti sento fortissimo. A tutti sento, dai, sta Claudio. Non so quanto state arrivando, lo vedo lo smitter, però direi che siete ottimi, dai. Col 44 sto andando, Daniel, a farlo girare un po', che era un po' fermo, perché ce l'avevo 10 metri. Non 10 metri, in HF ce l'avevo, capito? Io l'HF li uso poco, mi piace più ascoltare. Allora ho invertito le antenne e adesso faccio andare un po' il 27, almeno lo uso il 440, se no si va a dare un fumo. Sto arrivando bene, loro vedete sono riuscito come lui, non c'è niente. Sono in Rai, molto fatto, non so di più, molto di fatto. Questo è quello che avevo, l'ultimo che ho comunicato, perché l'altro fatto. È rimanenza, perché poi c'è il 48, ma quello originale con 3 watt e basta. No, questo ci va bene, Daniele, questo ci va bene. Riprendi ancora un attimino, mi sta chiamando mia moglie. E tu bene, mi senti, Daniele? Aspetta, te lo faccio un po' di QRM. Cos'hai detto? Se mi senti abbastanza bene. Sì, direi che andate tutti bene, Antu. Andate tutti bene, io sono anche prima del. Sono scordato veloce prima di, dello svincolo di Yuri. Pensa tu. E sono in una fossa adesso, Gappa. Io sono qua dove c'è, cos'è Gaburue? Alberghiero, che imbarazzo chi è? Sono fermo qua. All'alberghiero? Dove c'è la scuola ciclismo? Su in alto, da Trapperugilo. Ah, ho capito, dalla parte di Scala di Gioca, sì. Sopra. Ok, quindi c'è la mia. Al mio fianco, sì, ok, la mia radio, dai. Perché adesso stesso di rimanere sulla destra, vedo tutto io. Ma grappa. E adesso come ne vado a casa? Perché da giorno da fare anche il bambino comunque dai, ho visto che funziona forte, arriva forte, va bene, tu hai anche poco fa vado a casa, una poca giornata va più che bene, ma mica stai innescandomi perché alza il radio, guarda adesso 1, 2, 3, 4 e 5. Questo chi è? Quello che c'è il babbo No, questo è il Super Sub 2009. Ah, che noi ne avevamo due di quelle. Sono diretto. No, l'altra l'avevo venduta, c'era cioè, quello con fuori, c'era. L'ho fatta al sette, avevo fatto Massimiliano Bulldozer. Sì, ma c'è qualcuno sotto. Aspetta, tanto che sono in zona d'ombra adesso. Qualcuno? Cos'è, tanto? Prova che c'era qualcuno sotto. No, a me non aspetta nessuno. Va. una bomba, finalmente sono riuscito a fare un impianto come si deve. Ehi, dove stai tu? Va bene, arrivavi a casa, arrivavi a Itri, cioè noi arrivavi a Itri a casa, va più che bene. Finalmente sono riuscito a fare un grande impianto, mi riesci da ragazza, però ci sono riuscito. E da quanto stai andando? Col bowling, con la tatas, ma alla 100 plus ciò. E boh? Il bowling. Cos'è, con 50 watt? E boh, non li ho misurati quanto ce n'è. Cosa tu? Misurati! Ma dico, con 50 ci sei. E penso pure di più. Quello è il minimo, mica. Le pareti deve avere almeno 50 watt, se sono di più è ancora meglio. Ah, hai visto quanto arrivo forte? Arrivi fortissimo, ti ho preso dalle... Vabbè, a casa l'ho sentito da... sotto casa, si può dire. Fino a fine già arrivava, tu non riuscita lì, ti sentivo solamente Claudio, dove ci sono i distributori, adesso se ce l'ha presente. Itri, a te ti ho sentito proprio inizio a scrivere veloce, che era Valgheiro, Uri, e via dicendo. Cappa mia, adesso mi sono messo in movimento. Cappa di Rosa, trovo, adesso sono all'altezza del... dello svincolo Perussi. Bomba, vero? Svincolo Perussi sei. Apertissi, dai. E niente, già fugge Antù, a voglia. Cappa, sono contento, Ripeto, mi è riuscita la canna per fare un buon lavoro, però ce l'ho fatta, dai. A voglia, io mi sa che sono quello più lontano di tutti, così è. Lei non sono tu, no. Sì, e chi c'è più lontano? Ma c'è il senso che a pochi chilometri da Sassari, ma io sono più quasi 30 chilometri da Sassari. Ma adesso io sono in Viantano, sono zona alta. Già fuggi anche tu, poche poi tu sei alla... si vede alle antenne, si può dire. Perché io sono scogliato veloce e tu stai scendendo dalla parte opposta. Appagappa. Una bomba. Già va bene. Ma che antenna stai usando anche tu? Sempre la solita, la Magnum della Lem. Capa, io c'ho sempre la Telecimille. È buona comunque questa Magnum. Già funge. E Claudio dove? Ma c'era qualcuno sotto. Chi lo vuole entrare avanti? Mongoli! Tipo tutto! Antonio, mi senti? Dove sento? Dove sei arrivato? Io ho superato pure Piandanna, sono qua dove c'è il tribunale dei minori, dai. Cappa, io sono qua in via Milano. Già va bene, mi svincolando per la 131 adesso. Direzione Predanietta. Alla stragrande! Cari, veramente dentro si dai, già ve ne è poco di sole. Cosa tu? Dentro ci sono un bel di casini. E chi? Forzone. Adesso ti sento male. Sono in mezzo ai palazzi ora. Ma che c'era? Un porco per caso? Non sì, non l'ho ancora sentito. Che cazzo roba di QRM, Zay, no? Dove citare fino a un bel di Mondezza, beh? Allora, ecco, qua non sento nessuno io. A volte è un po' di difficoltà a sentirti. Attendi un poco, oui. Oui. Allora, com'è la situazione qua? Io sono qua a via Napoli. Noi stavo vedendo un paio di cosette con la moglie. Dove sei arrivato, Daniele? Mi, sono a Predaniele da solo, sono qua. Comunque Antonio, ho sentito da l'uscita di Iti, vabbè, già c'è di più e tu sino adesso, dai, non ho perso nulla. Già va bene, se si procura un microfono amplificato va più che bene. Funge, infatti guarda che sto scendendo con 4, 8 watt, non di più. Va bene, ascolta, a me mi senti bene? forte e chiaro Quacqua, forte e chiaro, niente da dire, sempre radio solita, tutto Roggero. Aspetti, abbasso. A pacra, io non che senti bene. Mi senti bene, anche lo sono bene. Io non sono qua in Vipoli, cioè via Mendola. Ti sento bene. Ok, no, ma non mi interessa, se non mi interessa la radio, che sia la mia, capite? Se ve la ricordate. Mi interessa sapere se la radio sta funzionando bene. Ande, alla grande proprio. Ok, già pagato. Vi lascio un attimo che vado a accendere il riscaldamento. Se siete qua ci sentiamo dopo, ok? Sì, a fare. Adesso sto andando a casa io. Oh, vai, anche che c'è freddo, non stare in giro. Se abbia il culo, baracchino. Se avete fatto le prove, va benissimo, dai. Ci sentiamo dopo, Daniele, prendi. Capo di loro, vai qua. Va bene, vai su una caldaia che sono qua, dai. Mi sto portando i bambini in piscina. Va bene, va bene. Riprendi, bambolì. Se capo, io sono, come si dice... che caldo qua, c'è il riscaldamento acceso, freddo non ce n'è in macchina, no? Benereda, benereda, meglio così, dai. E va bene. Senti Francesco. Appaga, fammi, alla fine di via Mendola sono. Ehi Anto, va bene. Gappa, funge, funge, funziona, cazzo. Meno male. Ehi Anto, dai, io sono qua. Ah, prega, io, dai, sentiamo fra 5 minuti, aspetta, una bassa. Yeah. Avanti, avanti sul 10. Tu sì. Io sono. Ciao. Ma sì, come vai? In macchina. In macchina sì. Pa. Per quello è allora. Mi stavo spazzolando. È poco qua ci ho sentito, però mi sono fatto un altro canale che ci mangiava un'altra persona. Adesso se ne è andato, sono passato qua. Allora, questa c'è una cosa bella. Che capo, sto prendendo la bretella, sto prendendo. Non ho capito. Perché sto prendendo la bretella. Ah, ho capito. Ma sono faccio bene. E dove perché c'è la radio, eh? Sono delle macchie quando parli, capito? Sono delle macchie la radio a tracci. La radio è una radio normale. Che prende un altro, chi è avanti? Sempre io sono Bomboli, chi è che è entrato avanti? Maria c'è. Chi c'è Gia Maria? Io sono sì. Gia Maria mi senti? Sono, ti sento io, chi ti sente? Che ha detto l'altro, io ti sento. Buonasera Gia Maria, Daniele da questa parte, me l'ha ascoltato. Io sono qua in zona negativa solo, sono a Predaniel da una sola e mezzo ai capannoni, dai. Dove arrivi bene lo stesso, ma in Ovaria siamo vicini, non siamo lontano, capito? Io so, date dolce a Predaniel da un attimo, in linea verde siamo vicini. Latte dolce. Atto, adesso ti sei avvicinato, adesso si è fatto una scala, ma sotto casa sì. Ma no, sono qua, cosa, come si chiama? La Santa Maria di Pisa sono. Intanto, adesso ma come sento così, così, ma adesso sei quasi rotto e più. Sono latte dolce. Sono... No, adesso non è latte, non lo sento più, E vabbè, un attimo il telefono. E ya, fai fai. Bomboli. Me. Ma dove sei? Mi da niente. Dove sei? Non le dimmi. Ho detto, dove sei? Dolce. Latte dolce? Sì, ya. Qua sta arrivando basso, Qua, più e più sei. Sto viaggiando, boh. Gara, gara. Aspetta, vedi. Guarda adesso cosa succede, meglio mi ascoltare, santo. tanto troppo salendo a casa, a me. A casa ti accompagno fino a una cosa. A casa esco un po' forte. Già va bene a te, già va bene. Ti radio già ti ascolto, eh. Segnale non lo so. Perché questo è tirchio qua, è. Per apparecchio. Vabbè, sono arrivato sotto casa. Tanto dai. Ci sentiamo dopo da casa. Sparcheggiando? Troppo di remato. Va bene. Ciao Daniele. Ciao Marco, ben ascoltato. Io sono di passaggio, dai, ho mollato la cucina adesso. E adesso devo uscire a fare una commissione. E bombolo forse è arrivato a destinazione, non lo so. Ma come che avesse chiuso? Va bene, va bene. Tu dove sei? Baramobile vedo, no? Il segnale è forte, sei a Sassari. Ehi, Marco lì. Sono qua, doppia sierra, zona pedaneta. Caspita. 9.25, anche per te. E bombolo nel pomeriggio approvato da Regione Gesù Giuseppe Maria, dove era Paoletto? Arrivava a 9.25. Aiutato. Senza aiuto non abbiamo provato. Quindi segnali tutti buoni. E basta sti PMR, mamma mia. Cappa, io sono liscio come lui, Marco lì. Forse sarà 8-10 watt, boh, non lo so neanche. E niente. Già, il 41 ha fatto la prova da Itri sino a Sassari in BM. Ed era forte e chiaro. Già funge quell'aiutino che c'ha, a voglia. L'ho sentito anche da casa, in BM, dappertutto. Mi è sembrato di sentire Gio Maria prima, se era lui, e che aveva la modulazione tutta distorta. Stava strappandomi. Probabilmente deve abbassare il microfono o levare il processore, non lo so. Va bene, Daniele, io proseguo le cose qua a casa, dai, faccio questa commissione e poi si vedrà. Ci sentiamo, buon proseguimento. Ehi Marco, va bene, va bene. Vuole facendosi allora, dai. Poi se sento qualcuno già sono qua. Non c'è problema. Buon proseguimento, buon tutto, alle prossime se coincide. Modulazione tutto a posto qua. Tutto a reggere, il tuo effetto cattedrale va più che bene, Marco. Io spero che anche la tua ricevente sia la stessa. Sì, bella modulazione quella che hai anche adesso. Bella, squillante, limpida. Buono, buono, tutto buono. Va bene, ciao Daniele, ciao, buona serata. Ciao, poi non smetterò, meglio così, dai. Ok Marco, buon proseguimento e buon tutto, dai. Alle prossime e dopo se coincide. Tanti ancora per un'oretta sono qua. Atto, Daniele. Chi mi chiama, avanti? Io Maria, no, sono al telefono, dai, è chiuso, sentiamo Atto, buon proseguimento. Capo, sono arrivato a casa. Ok, faccio il segnale già, a Porto Scala, ciao. Ciao, ciao, ciao. Attento Daniele, capa. Ora, ora, ora. Daniele, ci sei? Ora. Ora, ora. Prova radio. binario 10, binario 10. Avanti, binario 10. E chi è? Avanti, chi è su 10? Daniele, tu sei? Ehi, Avanti, sono io, sono io. E adesso diamo i cinti, no? Ehi, a Fuglia. No, proprio Daniele, sì, adesso io sono a casa, Forte e chiaro qua. Non scala il segnale. Prova. 1-3, 1-3, 1-3. Ehi, a fare scala sei tu. La radio è ben forte, mi stai spaccando i timpani. Da casa un'altra cosa, questo è il Cobra. Il Cobra è un serpente. Questo è il Cobra col... come si chiama? Col microfono originale, dai. Col microfono originale? Gappa, una bella radio, Io l'ho messa a usarla. Ho detto, no, io la metto in moto, stazione fissa ci vuole. Fatto bene, anche se c'è radio ferme, falle girare. Gappa, aspetta. Già va bene le stazionarie, dai. Gappa, di roll, metro. Tu bene, mi stai ascoltando, Antonio, e questa antenna è un bel po' ferma adesso. E non so neanche se, se è ancora tarata, è tarata, E 9.20 sei qua. Ciao, Lava. Aspetta, devo fare una prova, mia, tu. Capo, in che zona sei di Brodanietta? Guarda, sono a rotonda del Tecnomat. Che sto andando a fare gasolio per domani, per lavoro. Guardami adesso. Cosa è successo adesso? Si è ammassato. Di molto? Ma un pochino, non molto. Cioè, guarda, forse non sono fatto un mezzo, due forse. Guarda adesso, deve essere intorno ai 10. Non la così che va bene. Cara Lara! Cappa, Già funge, Antonio, già funge! Il mio elicottero è sempre in trotta, Sempre in trotta, sempre! Scappa! Questo è un impianto serio! Già va bene, già va bene! Sì, a Fuglia! Finalmente te ne dai sarà aiutino sotto, va! No, sono a casa, sono! Già lo so che sei a casa, Arico, per la macchina! A Fuglia! Capo, a Fuglia sì, già funziona già! Già fugge, Antonio, se ti sentivo da Iti, però a casa lo stesso! Lo so, lo so! Capo di Rosmetto, tu pensa che io con questa radio, con questa antenna, ti ricordi Angelino di Alghero? A Fuglia che me lo ricordo! Io ho fatto la casa sua, sì, all'ingresso di Itri, sempre in collegamento. Non ci siamo presi un secondo. Buono, ma che fine ha fatto? Sto sempre lavorando, sempre incasinato, e quindi è tra poco anche in radio. Ma ce l'ha ancora Angelino? Sì, ce l'ha ancora Antu, lui sta usando l'altra antenna che ho io, la Game Master. Perché la sua c'era rotta, allora ho prestato la mia, ho detto vabbè c'ho l'avanti, o va a prestare qua buttata, ti do la mia Game Master, così funziona, la fai andare. E lui lo stesso c'ha un'ala 48, liscio come l'olio e non c'è niente di attaccato, capito? Non l'ho mai sentito, Valghero. Che è avanti? Gianmaria, sono, ma in macchina sì. Gianmaria, sono in macchina qua, zona Predanieta. Ah, non si è ricasata ancora. No, c'ho i bambini che sono qua in piscina.